canale 10. Cicù, c'è qualcuno qua? Non c'è nessuno, non c'è nessuno, cosa vuoi? No, cosa vuoi tu? Sempre a dormire, sempre a dormire, vai a lavorare. E chi ti dice che io non lavoro? Vai, esci fuori, corri a lavorare, così almeno ti chiedono il permesso di soggiorno. E oggi non fa, anche oggi è una giornata bruciata, c'è un caldo fuori pazzesco. E ieri, li hai visti gli aerei? Gli aerei? E allora, qua sopra sono passati due Canadair. Siamo chiamati da Roma. E allora c'era fuoco lì. Faccio plague con la zona, è successo un po' di casino. Oggi non si può fare niente, guarda, non si può fare niente, devo aspettare almeno le 6:30, anzi 6:30, 7, giusto per finire il lavoro, la lanterna, perché scotta tutto e non puoi prendere una pinza, non puoi prendere, non puoi salire la scala che brucia. E infatti, con questo caldo non ti permette di fare niente, Gianfra. Stamattina sono riuscito a piazzare i tubi con l'antenna che era già tutta pronta, l'ho tirata su, ma alle 6, stiamo parlando delle 6, poi intorno alle 8 ho abbandonato tutto perché già si capiva che era una giornata calda. Ti neri un macello. Stavo guardando che puoi trasmettere col cellulare in DMR, però questi per il numero vogliono l'autorizzazione generale. Allora mi sembra normale anche. Lo so. Non basta il nominativo. No. Ma anche per avere gli sconti, quando compri le radio professionali, ti chiedono la licenza, capito? Molti stanno chiedendo la licenza per farti avere lo sconto dell'IVA, se no la paghi per intero. Figurati. E per ostruire la situazione, nel senso che non vogliono che li compri gente che non è autorizzata. Ma neanche per quello oramai, guarda, tanto sono pochi quelli che ce li vendono, stanno andando diminuendo, stanno chiudendo perché non c'è più il tanto. Infatti ieri ero da Giorgio Grassi, no? Ha detto, ma Roma antenne non avete più, no, per carità, solo roba di televisione e basta, oramai non c'è più nessuno che le compra. E infatti, anche Sergio Grassi non c'ha più nulla così. Solo roba TV e basta, praticamente, pali, amplificatori, quelle cose lì. Ma per le qualcosa di commerciale, ma no. Niente roba tipo come era Fusaro, ma neanche Fusaro ne ha più, c'ha tutto sotto ordinazione, capito? E quando te ne ordina pure. Infatti per ordinare così me lo ordino io, se permetti, non faccio anche prima. E infatti. Perché se te lo ordina Fusaro non se ne vede mai la fine, capito? Perché finché non ha un certo quantitativo di roba lui non ordina nulla, capito? Fai prima ordinarlo da internet, almeno in 3-4 giorni ce l'hai. Ma quelli grandi che stanno reggendo, tipo Media Globe e qualche altro, SM Elettronica, anche se compri 100 euro di baracchino di antenna, te lo mandano subito. Con la fame che c'è in giro, così devono pagare i dipendenti, capito? Non sono come qua, che è tutto a livello di una persona, massimo due. E magari sono anche fratelli e parenti, capito? e di là ce ne sono molti tecnici che riparano, gli altri commerciali, insomma, di lì devono guadagnare se vogliono campare. Sì, infatti lì è roba in grande, capito, non è come qua. Qua prima o poi anche quelli sono destinati a cambiare professione o chiudono del tutto. Sì, certo che è un macello. Non ne compra più nessuno di roba. E poi chi ce l'ha ce la stanno anche vendendo, molta gente. Una certa età, anch'io adesso non ho più messo l'antenna grande, sto mettendo un'antenna più piccola proprio perché non è troppo faticoso, poi con questo clima come fai? È un rischio, devi aspettare anche gli orari strani per poter lavorare. E beh certo, con questo caldo la scala diventa rovente, non puoi ducare nulla perché ti fai male. Bisogna che ci sia fresco, se no non ci puoi salire. Ma dice che la prossima settimana forse piove, magari piove acqua calda, boh. E cosa vuoi che ti dica? Anche gli animali stanno soffrendo, comunque si vede, stanno a pancia a terra, cercano l'ombra, tanti brutti segni che ci dovrebbero fare un pochino riflettere su quello che sta succedendo. Dice dovremmo arrivare a 40 gradi addirittura, ma dimmi tu. Guarda, io qua dentro, che è la parte esposta, anche se è tutto buio, perché non puoi aprire la finestra, io qua dentro la stanza, il ventilatore acceso, sono a 30 gradi, figurati. Sotto, al piano di sotto, si sta molto meglio, perché è rivolto dall'altra parte, anche tra l'altro. Però sopra c'è caldo, volendo c'ho anche il condizionatore, ma poi se mi devo spostare, come spesso faccio, capace me ne prendo anche qualche malanno. Poi Giulio si sta guardando il ciclismo, se ne frega la faccia nostra. Quello è un crumiro, cazzo, si guarda il ciclismo. Cazzo, ieri mi è arrivata una telefonata e sono dovuto uscire a fare una commissione. Sono tornato tardi pure. Io invece sono riuscito ad andare da Ernesto e mi ha mangiato un bel gelatone che ci voleva, ma anche lì era una giornata calda, anche lì batteva il caldo. Io dovevo andarci stamattina con una persona, dovevo andare e invece non c'è venuto, ma ha bruciato stamattina. L'ho anche aspettato, nulla. Vabbè, ho fatto colazione lì al bar e poi me ne sono andato, mi sono preso la macchina perché sono andato a piedi fino al bar, quello della Mocador che c'è lì in via Pascoli. Perché c'avevo la macchina lì dove c'è Agri Lutti, come in via Sorso, perché è parcheggio vicino a casa, Nisba. Quindi dunque dove sei tu, l'alternativa ti devi fare sul ponte, perché da te devi dove la metti, vedi un caso. Ma non c'è neanche la palla, quella che scende giù. Dove c'è spazio, da dove c'è una volta, non so se c'è ancora, stanno arrivi, o il mobilificio che sia, non so. Non ho mai provato a scendere lì a vedere se si trova qualche parcheggio. Vabbè che poi lontano è più isolata e sono cacciati, la mette pure fuoco. Io vabbè, tanto la posteggio sempre lontano, ma già mi fa bene, almeno cammino, perché c'ho la gamba che guarda, come cammini poco a poco ti viene tipo un grampo forte, un dolore fortissimo. Ma comunque stamattina già sono andato meglio, diciamo così. Cantarino per il Vella. E vai, cuocuomane. Cantarino, pantaloncini corte berrettino. Ciao. Ciao Claudio, grazie. Ciao ragazzi, Carlo Gambette, qua si sta da Dio, sapete se è da Dio, una canonata, fuori no, ma dentro casa ti dico, una canonata. E non posso immaginare. Avete parlato in due, cosa hai detto già fa? Che prima o poi devi uscire, non è che puoi stare intanato lì aspettando tempi migliori. No, ma mentre hai fatto il caposcala lì è Termonazzi, ma il problema è tutto a posto lì, guarda Dio, qua neanche con le condizionatore si sta bene. Ho dovuto aprire per fare cambiare un po' l'aria, sono 30 gradi dentro casa, io non ho condizionatore, ok, dentro casa ce n'è 23 e fuori ce n'è 34 e io 28 ne ho qua, 28 già alto, io 23 misurati, 23 gradi, c'è un cambio di temperatura già fa dall'esterno all'interno allucinante, forse perché ci sono 2 metri di carrello da una parte all'altra, la casa è molto isolata, non lo so, ma è così fresca, guarda, veramente da Dio. E anche la mia, io ho il cappotto fuori anche, doppi vetri, però dentro ora come ora con il ventilatore acceso ci sono 30 gradi, non attacco il condizionatore perché se esci fuori poi ti fulmina, ti viene un accidente, volendo potrebbe avere il fresco, ma non preferisco stare tranquillo perché sto entrando e uscendo sempre, quindi è troppo a rischio così dal caldo, perché fuori veramente c'è fuoco, poi non si sta bene da nessuna parte, qua il sole lo prende in pieno, è proprio molto molto soleggiato, però cavolo, sono temperature grosse. Ieri Claudio, ho visto i tuoi, sicuramente sono passati sopra di te, i due canadè. Ehi, fate di tuo sciogliamo, non ci faccia l'autobot, mi ha fatto tutta leva in nato. Manco ti va via la doccia. Quella, se scarica quella non ti ridi, ti butta la gasa. Chi se fa come sicuro, già lo so già. E poi se c'è ritardante, peggio che mai. Però così non è, perché ci sono queste temperature alte. Sì, ma per essere così veramente inizia a essere scocciato. Io sono dovuto salire su a cambiare quell'antenna, infatti ci devo salire tardi, erano le 6 quando sono salito e ho finito alle 8 perché non sono riuscito a tirarla su e stava iniziando a fare troppo caldo. Quindi adesso ci sono tutti i tubi telescopici all'interno. Più tardi se ci riesco salgo, quando raffredda un po' il punteggio perché è un coso, è una padella bollente. Vabbè. Siamo stacchi? No, ma anche qua. Poco fa sono andato al cancello e c'era mia vicina, mi ha portato un po' di verdura, ma c'è il cancello che è bollente, infatti dopo appena abbassa un po' la temperatura l'avevamo abbassata l'acqua. Kappa, già va bene, dai, tempo suo, volevamo il caldo, ecco il caldo. Sì, ma quando è così mi fa essere troppo. Per essere troppo è anche pericoloso. Mi prendi in Atalis? È pericoloso sì, poi il problema nostro è che ci sono gli incendi, pure un macello. Quest'anno bisogna stare molto attenti con gli incendi, ma molto molto attenti. È un casino, troppo caldo, aumenterà ancora il caldo, perché ho sentito che ci sono picchi di 40 gradi, 42 gradi in settimana. E anche io ho sentito così. Aspetta, giusto, boh, gliela abbiamo mai. Non c'è punto dove ti puoi riparare, perché sta diventando una cosa globale questa cosa, questo caldo pazzesco. Magari a ottobre, eccetera, spuntano fuori quei temporali trombe d'aria fino a fine mezza. Di quelli micidiali. Una volta è successa una tromba d'aria in campagna mia, che ho trovato davanti qua la mantova 5 col tubo sembrava segata col seghetto, appoggiata sul tetto l'ho trovata, meno male ce ne è tirata, se no l'avrei trovata alla Ginara. Non ho visto il casino che ha fatto, ma i punti a volte l'ha fatto un danno allucinante, ho voluto mettere tutto nuovo, come l'aria di essere attenti, purtroppo è così. Di quella trompa d'aria allucinante, cazzo, che si va a tenere danno a vero, quando basta è un macello. Lo so, però ti ripeto, il tempo suo è, ce ne deve fare, no? Gappa gappa. Avanti Gianfranco, aspetta un attimo, mi sta chiamando mia moglie. Così è. Allora Natalia, come funziona? Come sta andando? Sì, stavo provando quell'affare, ma non sono riuscito a connettermi col telefono. Ho messo tutti i parametri che ha messo quello lì, però Nisba. Ma dove puoi andare, Natale? Ho capito. No, col telefonino però, che si collegava al DMR. Aspetta un attimo il telefono. Ok. E uno spam era. Un po' allarme. Non hai visto che squillo prepotente che c'ha? Già l'ho sentito, no, è il mio, c'è cioè, qualunque cosa. Ne ho tanti di squilli, tutti uno di sotto all'altro. Sì, secondo come li programmi tu, certo che sì. Non ti credi che lo sai solo tu, anch'io lo so. Sì, e quindi mi stavi dicendo che volevi fare il coso lì, l'ascoltone, ma non ci sei riuscito. No, non ci sono riuscito, per quello io. C'ho l'applicazione, però non... Poi difetto dell'applicazione, lui gli ha messo i parametri che ha messo quello lì, nel video, però Nisba. Così. Se no non ci metti il coso. Dove sentire, la mia suoneria, la voce del padrone, senti. Quella sì che la conosco. Fedele nei secoli. La fedelissima quella. Poi per altri c'è questa. Vediamo se la conosco. Mi suona il PIN e mi piace il V. Mormorò qualche parola e mi fa un passo. Signore. Comunque la radio è cambiata, vero Natalia? Adesso è più potente. Ah, mi sembra meno potente di ieri, la verità. Come? Non aspetta. Ma che basta. C'era mezzo chilo di gommacchio qua dentro. No, adesso no, c'avevo il volume più basso io, Gianfra, scusa, no, ho provato io, era il volume troppo basso. Perché per proteggerla no, ci mettono quella con la piuma, che però attenua anche molto, quindi le ho tolto la griglia e adesso guadagna un pochino, volendo lo potrei anche metterci un transistor e amplificarlo, tanto è facile, questi. A conversatore, ma poi mi guarda la banda laterale per là e la sciolgo, cioè c'è una banda così. Oh, va bene questa qui per la M, non toccare nulla, no? Infatti, lo lasciamo così com'è. Ci credi che non c'ho neanche voglia di mangiare a volte dal caldo che c'è? Mi fa passare la gana, stamane poi sono in ferie e sono dovuto andare lo stesso in ufficio praticamente per fare dei lavori. Che casini, guarda, no, non ho più voglia Natalia, mi sta proprio prendendo di brutto. Lo so, quello del caldo a non farsi mangiare, lo so, io devo mangiare per forza, anche con trebuglia sto mangiando, perché se no non mi rimetto più, perché io dimagrizzo troppo. Quando purtroppo quelle cose sono a rottura, sono cose brutte. E anche Raffaella se n'è andata, visto? Quest'anno, tra quest'anno e l'altro anno, sta facendo strage. E anche Raffaella se n'è andata, lo stavo guardando poco fa la TV e lo stavano dicendo. Ma un po' di gente è morta, cosa ti volevo dire? E adesso gli anni passano, per ritornare al discorso del lavoro, che non è più Puglia, io lo grido. Perché adesso vogliono che va in pensione dopo 2 anni nuovi, capito? Così almeno risparmiamo un sacco di soldi. E come è successo a Babbo, che non si è, ha lavorato per 50 anni, cata, e dopo manco della pensione si è goduto, povero uomo. E lo stesso è capitato a mio. Neanche andato, era già morto. Ehi, sì, questo qui, mamma mia. Meglio, mi sto zitto, va, che meglio. Cosa gli è successo a mio padre? Ma poi, secondo me 65 anni è l'età ideale, perché non è né troppo e non è né poco, perché così, ma dovrebbero mettere fissa per tutti, a 65, chi ha più anni prende più soldi, chi non è meno ne prenderà di meno, però tutti dopo 65 via, fuori dalle spalle, perché non ce la fai a metterti a studiare lì nuovi sistemi, ma in molte professioni no, non c'è più la mente come una volta, e anche se lo fai per passione è una grande fatica. Poi così secondo me ci guadagnerebbe anche loro, perché quando vai in pensione spendi anche quei pochi soldi che ti danno, li spendi e fai girare anche l'economia. L'aspettativa di vita sta andando riducendo, c'è altro che balla, non senti altro che gente che conoscevi che sono andati. Questi vanno avanti, però loro hanno anche gli ospedali appresso, noi non ci abbiamo neanche quelli tra poco. Sì, è un casotto, mamma mia. Infatti a 65 hai ragione, a 65 fuori dalle balle, ci vuole gente giovane poi. Se è un mestiere come quello che fai tu, che devi studiare, questo, quella, come fai all'età tua, che è un ammazzamento. Ah, infatti, adesso pure figlia questa mania degli aggiornamenti, dei corsi, certo, poi alla fine non compravo che so che devono comprare per realizzare almeno il minimo indispensabile. Ma sta diventando tutto un casino, guarda, per carità, te ne passa la voglia, infatti. Anche chi c'ha la passione, che ci è vissuto tanto, soprattutto per passione, te ne fanno veramente, te la tolgono, riescono pure a toglierti la voglia di fare qualcosa, guarda, questa gente. Comunque, così da tutte le parti, ho visto che c'è gente che non vuole loro andarsene, perché non ne può più proprio di questi qua. E ha fatto bene quell'amico mio, lavorava in questura, questo qui. Mi pare a 45 anni se n'è andato in pensione. Dice pigliava più di pensione che di stipendi. Quello è stato fortuna. Se n'è andato anche un altro che conoscevo io. Tutti assieme se ne sono andati qui. Quelli erano giovani, vedi, quando se ne va, però anche a 65 va bene che uno se ne vada in pensione, a 65 va più che bene, non un anno di più, mandali via che ci godono la pensione, poveracci, cosa li tieni lì, e certi lavori, poi ci vuole gente giovane con la mente fresca, no, non ne vogliono capire, no? No, anche perché se continua a tenere gente di una certa età lì, a parte che sta male a stesso, ma poi questi giovani cosa fanno? Non trovano nessuno sbocco. Ci sono laureati Cata, che non stanno lavorando, poveracci, hanno studiato una vita e sono ancora sulle spalle del padre e della madre, giusto ti sembra? È un casotto, E poi c'è anche il fatto che quando vai in pensione quegli anni neanche te li riscatti, se li vuoi riscattare costa parecchie migliaia di euro, è un tempo che quasi nessuno se lo può permettere. Infatti no, legalmente a 65 anni fuori dalle scatole, via, e assumi gente che ha bisogno di lavorare. Ci sono questi laureati poveracci, non ne trovano un lavoro, che si mettono a fare lavori che non gli compete a questi qui, hanno studiato una vita, povere persone, mamma mia. So di certi casi, guarda, veramente. Purtroppo così. Infatti, se lo volevamo veramente risolvere, avrei fatto un'età unica, poi per i lavori usuranti avrei fatto delle particolari facilitazioni per farti fare magari qualcosa di più leggero, metterti in ufficio e quelle cose lì. Però in linea di massima, in caso, a parte casi particolari, tutti a 65 anni. A 65 te ne devi andare, punto, è finito, vai a spendere i soldi, vai a goderteli, però devi fare il turnover, hanno bloccato per tanti anni il turnover, l'abbiamo visto cosa è successo, in ospedali, nelle cliniche e così via, e nella pubblica amministrazione, è successo un grosso casino. Sì, tu bloccato. E via, già lo so già. No, ai lavori usuranti addirittura qualche anno di meno di 65, proprio per non tenerli in ufficio. Ma comunque, poi qui si fanno i conti senza lotte e succedono queste cose. Quindi stavamo dicendo che non riesci ad andare là perché ovviamente non c'hai il papiro, però puoi anche ascoltare dove ti ho detto io, ma anche tutte le bande, dai, con i mezzi da adesso si può fare tanto. Sì, già lo so. Sei tu che sei mandrone? Sì, mandrone. Anziano sono, non mandrone, non ne ho più voglia neanche io. Cioè prima me lo costruivo da solo il computer. Natalino, che stanco. E tu sei andato anche da giovane in pensione, cioè avevi 30 anni. Ma sai che non sia. Io ho lavorato da ragazzino. Ma piccolo mica, andavo a scuola e me ne alzavo alle 5 del mattino per lavorare. Mio padre già me ne diceva tutti i colori, perché mi sono ritirato dopo, no? Ho fatto la terza media e me ne sono andato a lavorare, perché mi piacevano i soldi. Però già me ne sono pentito dopo, perché l'intelligenza per poter studiare ce l'avevo. E che non ne avevo voglia io. E Cabimacu ha preso le bacari così? Via. Comunque già mi sono divertito, là. Auguro a tanti giovani divertirsi, la metà di quello che mi sono divertito io e dei soldi che mi sono mangiato. Vabbè, quelli che si ritengono al cassetto sono tutti soldi, non spendo neanche un cito, neanche per mangiare quasi, per carità. E ce ne mi legnavelli. Quelli che sono ricchi sono legnavelle, perché conoscono veramente il valore dei soldi. Siamo noi che non lo conosciamo e quindi spendiamo, spandiamo, invece che dei rimunini. Capito? quelli non spendono per niente. C'era la comare di mio padre che era secca, ma secca, era una cosa, guarda, che faceva schifo. No, io per quanto pochi ne abbia, però non voglio lasciare niente, anche perché tanto non c'è nessuno a lasciare, quindi ma la appena posto, se mi serve qualcosa non la prendo, se insomma non guardo, non lo guardo perché sono tutti soldi lavorati e quindi è giusto che siano voluti. Lasciarli a chi? Per che cosa? A fare un funerale? E infatti poi se uno non ha nessuno a cui lasciarli, cos'è? Poi cosa vuoi accumulare? Viverci finché sei in tempo. Sì, infatti, poi è triste la questione. Adesso non ci sarei andato, o domani mattina presto, oppure un po' più tardi di adesso, ancora c'è caldo Gianfranco. Dopo adesso in mezzo, vediamo cosa succede, perché c'è solo la sfida del tubo praticamente, non per alzarla, perché basta, quindi la tiro su, tanto ci sono circa, ho preso 8 metri di tubo, mamma mia, quando ha tirato giù sto niente, ce l'ho proprio. E poi sei anche solo lì tu. Sì, per quello sono rigido, non voglio nessuno in mezzo ai piedi, non voglio nessuno sulla coscienza. Devi sapere dove mettere i piedi, quello che puoi fare e quello che non puoi fare. Avere gente pasticciona che si mette sotto mentre cade qualche tessera o qualche cosa non va bene, ti cade una pinza, una capa inglese e ti fa scegliere, no, meglio soli, ho fatto sempre tutto da solo, questi lavori non voglio nessuno intorno. Infatti, io se c'era stato così caldo, no? Se non infresca un pochettino verso le 6:30 l'avrei fatto domani mattina con calma. Sì, già ci riesco in un modo o nell'altro. No, poi l'ho piazzato, no, la scena. L'ho piazzato, questi tubi sono tutti di 2 metri da mano. E mi sono accorto che alla fine non arrivava a filarlo, cioè arrivavo su con le mani, però non c'era la forza per tirarlo su. Quindi evidentemente mi sono accorciato. Adesso mi devo portare su qualche sgabello, qualcosa, o una scaletta, perché sennò è un macello. Infatti. Ma io me ne sto temendo. Io non ho fatto togliere la loro l'antenna perché io non me la sento, quella Mantova 5 che ho in campagna. Va pagato. Colpo di segreto, anche in campagna, anche se cade a terra, arriva sempre lì, Ma viene bene perché lì svitti un bullone, no? Che c'è. E scende di 6 metri. E tu. Non è che ci sono due safe attaccate al muro, boom, e nella togli, non è che ci sia niente di trascendentale. Ma a me c'era il tubo da Innocenti che di 6 metri che pesava veramente tanto, l'ho eliminato, tanto ho fatto dei test e ho visto che anche quelli normali vanno bene, i tubi classici. Non c'è bisogno di quegli spessori, e poi a tirarlo su ci vuole larga ogni volta, invece questo l'ho tirato su a braccia tranquillamente, molto più leggero e la vuoi anche meglio. E infatti, invece quelli miei sono pieni, ma là sotto sono due verghe da 6 metri di quello con spessore grosso. Oh, ma non esco? Non è così. E io ho fatto break poco fa, dove se non mi avete sentito là. Buonasera a tutti. Ciao già, buonasera. Perché ci sono i turchi sotto che se chiediano, ma è stanno coperti. Ebbene, non ho ordinato nulla, non ho voglia di fare nulla, che ancora sono così. Vabbè che l'altro giorno ieri è passato Giuseppe, quell'amico mio che era maresciallo dei carabinieri, ha detto che mi ha trovato meglio, perché mi aveva visto quando ero proprio messo male. Sì, ho capito. Che sugherai no, a cosa tesi era quello lì matto mi luogotenente si è congedato, chissà la pensione che piglia. Già tornano pensioni buone, il mio socio lo prendeva di più di pensione che di quando era in servizio, figura. Natali non è quanto prendono, è a goderseli, capito? Pochi però a goderseli, non tanti, e poi dopo i primi anni alla fine che hanno fatto molti. Lo so, e Giuseppe non è che si è messo tanto bene, no? Quello lì era comandante di stazione a Tisi quando era maresciallo, poi si è fatto si è fatto trasferire a Porto Torres, se l'avevano trasferito, gatta, e si è congedato luogotenente, si è congedato. Quello ha lavorato, poveraccio, pur Rudinotti, Rubunia, l'ufficiale, a quell'età, dimmi tu a metterlo di notte a uno, però purtroppo quello è il lavoro. Ne conosco un altro di luogotenente, anche quello è andato in pensione e poi l'hanno trovato 3.000 cose, sempre sotto cura, a quanto diciamo, poveraccio, mamma mia. Sempre così, li prendi già. Anche Raffaella Carrà, hai visto, che se l'aspettava. E non lo sapeva nessuno, dice. Infatti l'annuncio l'ha dato Sergio Iappino, l'ha dato. Nessuno ne sapeva che era malata. Era in una clinica lì, dice. Vabbè, li prendi già. Sì, i dottori già lo sapevano, i dottori e basta, ma il pubblico non ha detto nulla, non ha detto nulla. Come sta uscendo questo microfono di radio, che è un microfono tipo M3C? Sta uscendo bene, bella forte, è chiaro. Sta pagato, questo microfono... microfono con la capsula di M300, però non è un M300. Sì, vabbè, l'importante è che esca bene. È un ibrido, là. Ed è al minimo, mi sono fatto ascoltare al massimo. Ora. Così al massimo. No, togli l'ora, ecco, c'era il riverbero, c'è. Sì, perché è misto, con me altro si mette anche l'eco. Anda bene Meda, oggi c'è la partita, gatta, me la guardo, Italia-Spagna. Io non riesco a seguirla, sinceramente. Se vedo che c'è gioco che ti impone, allora sì, se no sei troppo monotono, non riesco a seguirla, capito? Sì, questa è forte la Spagna e ci sarà gioco sicuramente. Anche quella col Belgio era una bella partita. Io esco un attimino fuori che vado a vedere una situazione, se si può fare qualcosa. Vabbè Gianfra, tocca al ponte, se vedi che è caldo non passa. Avanti già. Beh, niente di nuovo, Natali, nulla di... A mare non ci stai andando sicuramente. No, non ci sono andato, dovevo scendere oggi con Luciano, e invece non ci è venuto. L'ho aspettato un po' a Bar Pascoli, sono andato anche a piedi perché c'avevo la macchina posteggiata lì vicino, siccome non posteggio qua a Nilva, e allora sono andato a piedi fino a lì. Poi ho visto che non ci è venuto e me ne sono tornato indietro. Da voi va. Ma con Luciano chi? Luciano quello che la cifra? Sì. Perché cammina adesso? C'ha quella macchinetta elettrica. E beh, con quella veniva al mare. No, in macchina con me veniva, lui veniva al bar, mollava la macchinetta lì e andavamo con la macchina mia. Ah, cappagata. Io la mattina sino alle 10, 10 e mezza sono occupato, poi se non ho speso da fare che sono libero anch'io. Potrei andarmene al mare, però non me ne prendete la gana. A vero sì. Cosa? A vero sì. A vero. Ciao Gianni, buonasera. Ciao anche Natalino. Ciao, buonasera. E poi Natale, Natale, che stai combinando? E mi sono seduto qua. Me l'ha dato un rapporto di segnale? Fai. 1, 2, 3, 4, 5, sì. Ehi, fondoschiena qua, che ha segnali di dopo. Mi sembra reddito. Un 48 modificato. Già, come ti sto arrivando da te lì? Sono le 10, buonasera a tutti. Buonasera. Già è buono. Ma non l'eco l'ho passato io, perché ripete troppo, c'è da fargli la regolazione a quella scheda. La lascio così, perché se la metto poi va a rompere le palle. Ehi, clà. Ma finita l'eco la cosa là? Se te l'ho detto, la passata pre, è finito, sì. Vabbè, domani mattina ti chiamo, dai. Ciao Gianni, ben risentito. Ciao, clà. Sì, sì. Ecco la cosa mia, fra, a proposito, trovatela. No, negativo, ancora non l'ho provata. Questo apparecchio, e va bene, praticamente ho tolto il pezzo di quello che mi hai dato e ce l'ho buttato dentro su questo, capito? Un casino a tutto, vabbè, comunque sei finito e va benissimo. Ma di questo è brano, del mio? No, di questo 48 modificato, qua, questo che mi hanno regalato. Ah, vabbè, poi domani mattina ti chiamo e ci vediamo, ci vediamo al caffè, mi darò un meritio con la roba. Avanti Natalino, buonasera a tutti comunque. Buonasera, ben rientrato. Gianfranco è andato a vedere se si può salire e gli tocca al ponte, se caso non ci salire, gli ho detto. E io stavo preparando per stasera perché fra un po' arrivano, c'è gente a cena, con la partita che ha mancato la bomba, sono dovuto uscire e andare a prendere la bomba, capito? E quindi niente. Adesso sono rientrato. Vabbè già, sto bene, Gianni. Ehi, ah sì, ah no, sono stesse qua, Palino. Sì, sì, è accaduto, sì. Oh, fra, ma con lo smitto, piazzatola. Ehi, non andava bene quello che mi hai dato tu. Però ho tolto praticamente il pezzo interno e ce l'ho messo su quello, nello smitto originale del 68, del 48, capito? Quindi ho fatto una modifica, va bene lo stesso, sta funzionando bene, quindi alla grande. Ah, quindi hai dovuto fare la plastica di una e mettere quella dell'altra, così? K di positivo. È interessante che abbia risolto. No, è uguale identico, non cambia niente, capito? Va benissimo. Quello che era regolato, era giusto. È perfetto questo, va bene. Cosa stai usando già? Cosa? Cosa stai usando? E indovina. Il cobra. Ah, cobra con me, aia, è fortissimo, stai rimando un bel forte. Allora, c'ho un Bluetooth tipo di M300 attaccato e... capsula di M300, vabbè, il microfono è un altro, però è... un ibrido là. Vabbè, la colorazione è forte, corposa, vabbè, segnale 6920. Andava, era da un po' che non accendevo, là. Stavo... entrando poco là. Anche io faccio perché vi ho sentito, a volte vi ascolto, sto facendo cose, no? E importante ogni tanto ci sentiamo, poi ci abbiamo luci. Avanti Natalia. Ehi, io invece mi sono stancato, adesso me ne vado, che devo fare cosa. Ci sentiamo alle prossime, da. Ciao, ciao Natali, allora, ci sentiamo, vai fra. Ciao Natali, dai, te la riascolto alle prossime, saluto in casa. Vai Gianni. Ciao Natali, ci sentiamo. Fra, ma che microfono stai usando? Allora, io sto usando il suo microfono originale, questo qua c'ha, è già modificato questa radio, capito? Questo scende liscio con i suoi guarda. Sì, quanti sono qua? Cappa di positivo. C'ha il doppio modulatore, c'ha la scheda a colto, c'ha la modificata in vatre, c'è un casino di roba. Va bene allora. E la scocca com'è? E copir? No, sono nuovi copir. Quindi c'è solo la parte davanti, la cambia. Il frontalino, ma già è messo bene, non è che sia messo male, capito? Quindi già va bene. Lo lascio così, è tutto illuminato, va bene, l'ho lasciato originale com'è, capito? La luce dello smitter l'ho lasciato quella, l'ho toccata. Scusate per salutarvi, ciao a tutti, io vado ad arrampicarmi, dato che c'è un po' qui poco d'ombra. Ciao Claudio, ciao Natalino, ciao a tutti. Scappo via, riprendi già. Ciao, buona arrampicata. Queste sono le cinghie. Ciao Gianfra, ciao, una grossimina. Qual è quello fra, quello che ho visto io? Allora, questo qua è questo zaino adesso me l'hanno regalato un tipo che abita vicino a Crea e faccio quel camionista lì. Che non lo stava più utilizzando, praticamente c'era la colonnina che era interrotta, poi c'era lo smitter e non funzionava, poi c'erano alcuni fili che erano mezzo staccati, gli ho rifatto tutto, lo stavo provando, vabbè come stavo andando. La radio a minimo l'ecco e lo lascio così, perché sennò va troppo in ripetizione. No, vabbè, ma qual è quello col frontalino blu che ho visto io, quello lì? No, questo è un altro, quello col frontalino blu è quello mio, il 68, il vecchio. E quello mitico, quello che ti avevo dato io anni fa, quello lì è? Cava di positivo. E già funziona bene, 68 è meglio del 48. Ma molto meglio. Cappa, avanti già. Ehi, allora. Meno male che siamo riusciti a metterla a posto, quello lì. Sì. Ma sta chiedere, quindi c'è sempre chi ha capito. Perché glielo ho detto, guarda, se voi, lui mi ha detto, dice, ma più o meno quanto ci vuole rispetto, ho detto, guarda, una quarantina di euro, e te lo uscite. No, non è buio, poi gliel'ho chiamato, ho detto, ma cosa vuoi fare questa cosa? Mi ha detto, prenditela per pizzi di ricambi, allora ho preso e me l'ho riparata, scusate, ma ce la buttavo. Vabbè, va bene così. Almeno, vabbè. Già va bene, dai. E questa radio come va? Fa la bomba, se arrivi, no? Guarda che quel microfono va bene, non è più compreso. E adesso, che mi sono ascoltato? Claro, ma sto uscendo già con quel microfono. E gli ho fatto la domanda poco fa, perché lui ne ha provato tanti e quindi non sapevo quale stavo usando. Ottimo abbinamento, va bene, cioè che io per le radio ci tengo moltissimo, ce n'è, non ne frega niente, però quando uno esce bene del radio lo dico, bella corposa, forte, amplificata, un leggero eco non fastidioso, come esce sempre Gianni l'eco l'ha sempre avuto, ma non ha mai dato questo grande fastidio, ha sempre avuto un eco leggero e va bene. Già quello va bene, quel microfono, anche perché ce l'avevo io, lo stavo usando e ha funzionato sempre bene, capito? Già l'hai visto come è stato fatto dentro, tutto rifatto a nuovo, capito? Non ci sono problemi, io le cose già me le sistemo, piano piano, ci metto un po' più di tempo, però diciamo già le risolvo sempre i problemi. Cosa che a volte non risolvono gli altri, che sono del mestiere. È un po' di forse. Comunque quella cosa là va bene, ci ho buttato uno da 40 sotto, capito? 40, c'ha i led, c'ha il vattometro, il coso, il voltometro, tutto a posto, sistemato, vento, doppio vento. Quando lo vedi poi vedi che il lavoro è uscito. Va bene capo, domani ti chiamo, poi organizzati per venire qua e sistemarti quelle cose che ti devi sistemare, già lo sai che cosa. Cava di positivo, va bene, ok dai, riprendi già. Sì, contratto. Adesso mi regalano di roba, Roba non mi regalare mai nulla. A me veramente me l'ha fatta sistemare. Lui non ha voluto spendere la cifra che gli ho chiesto, ha detto va, ci vorranno una quarantina di euro, se vuoi te lo sistemo, se no vedi tu cosa vuoi fare. Poi mi ha detto no, va, non mi interessa più, non faccio più altri pizza. Buttalo via, oppure prenditelo per pizza. Ha detto vabbè, se me lo dai per pizza, siccome che ne ho uno uguale, e l'uso per pizza. E allora gli ho detto vabbè, e me l'ha dato, me l'ha regalato. Adesso vedi che funziona, così spara sempre per spiarti, così ti rilascio. Dove sta apparecchio da? Allora, modulati da quasi 12 watt. Sì, già va bene, ma se c'ha l'effetto ricordo, lascialo, perché magari poi sul 45 ti fai qualcosa di extra. Ah, lo lascio così. C'è il 45 non l'ho ancora provato però. Prova a passare sul 45, 27, 465 dovrebbe essere, o 26, adesso non ricordo. Chi del 45 è rimasto? Va bene. Allora, che è? Avanti. Sono arrivato a cliccare l'uscito. Ti aspettavo la risposta. Ma tu eri sul 5, sulla... sul 45. E poi non rispondeva nessuno. Scappa. No, io sono passato di nuovo qua. Lo stavo provando, che stava andando bene con la radio. Sul 45, capito? Segnale com'è già da te. Cosa? Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, questo è il magno, non è? Anch'io sono il coco. Se sono il coco, il segnale lo sai che lo spicca, se non lo regoliamo va. E Marico, va bene, sì. Va benissimo. Cara. Allora, facciamolo così, dai, già va bene. Cavagata, a te tocca Claudio, ci sei? Sì, io sono qua. Guarda invece questa modulazione, questo è il magno. Guarda questi passaggi, questi vari passaggi che faccio. Guarda, questo è il primo passaggio, 1, 2, 3. Questo è il secondo. Va bene. 9, 10, 9, 20, 9, 25, già va bene, ma questa è la radio superiore. Aspetta, guarda adesso, 1, 2, 3, 4. Aspetta che mi sia agganciato il ponte, io il HD, ecco qua, quasi 9.36, quinta marcia. Guarda adesso, 1, 2, 3. 9.30 pieno. Guarda adesso, 1, 2, 3. No, non si è mosso, 9.30. Ok, dai, adesso lo faccio diminuire. Ok, lascio così. No, 9.20, 9.30, è buono. Cavagata. Questi sono i watt della radio, Sì, 9.20, sì. 9.20 pieno. Invece con l'altro dovrebbe essere uguale il segnale, con l'altra radio dovrebbe essere uguale. Adesso la pilotto. Io sono alla 4.30, la radio va bene, l'ho levata bene, vuole adesso la batta ancora. Ah Gianni, la radio va bene, vuole essere la batta ancora. No, va bene, mi stava più calma. La solita radio, no, va bene. Sì, va bene. Kappa. Bella cosa di spiegare. Che bello che sta facendo, mamma mia. Poi non posso attaccare manco l'aria condizionata perché mi sono alzato ieri dal letto, non riuscivo più a muovere il ginocchio. Mi si è bloccato il ginocchio dai dolori, non riuscivo manco a muoverlo. E adesso che mi è passato non voglio attaccare perché ti credo. Io non ho l'aria condizionata dentro, ma già con la giornata di impresa. Immagina fuori, ha misurato il termometro, ci sono ancora 34 gradi. non lo sai quanti gradi c'ho, 23. Lo so, anche io posso arrivare anche a 17, 16, 5, però chiedo che scalmato, quando metto l'aria condizionata la temperatura è troppo bassa, la temperatura. E quindi dopo mi fai di mano, mi prende a sinusite, mi prende all'orecchio, mi frega a scelta, non mi fa male l'aria condizionata, non mi va. Non hai capito, l'aria condizionata non è, c'è un cambio di temperatura da fuori a dentro. Fuori c'è un 34 gradi, dentro ne ho 23, ma aveva ragione l'impresa. Io ho la casa isolata, capito? Ci sono 2 metri di cavelli che girano intorno a tutta la casa, con tutto l'isolamento termico, infatti non lo volevo. L'impresa ha detto, te ne accorgerai quando fuori c'è caldo o cosa c'è dentro, e aveva ragione. Aveva ragione, 11 gradi di differenza ci sono. Praticamente senza condizionatore si sta da bene che secondo le ore ci vuole anche la maglietta. Sì, ma vabbè, in campagna poi c'è tutto regolare, c'è più fresco, magari c'è più punti, c'è più fresco. Con gli alberi, con tutto è diverso. Ma qua è una gaffa, qua se non c'è di condizionatore, adesso non so se mi ha pagato il condizionatore o il ventilatore che mi ha attaccato di notte perché c'è vocale. Uno o l'altro, e beh, non mi passava nemmeno con le volte dei due. Ho dovuto prendere quella fumata che si chiama artiglio del diavolo, la conosci? No, io non ho condizionatore già, non c'ho albero, non c'ho niente, c'è giardino e basta, non hai capito, la casa è isolata, c'è un'isolazione, un isolamento termico, i muri sono staccati, cioè l'interno della casa è staccato da quelli di fuori, perché in giro ci sono 2 metri di cavello, cioè dei corridoi lunghi che girano intorno alla casa, come isolamento, capito, quindi già la vista franco. La vita franco e c'è un fresco allucinante, aveva ragione l'impresa, ma detto con il sistema così sarà sempre fresco, sempre, perché la casa è isolata dal caldo. Infatti la notte noi mica dormiamo condizionatore, io la notte dormo col coperetto, stingono, non dormo cazzo con lenzuolo, cazzo avevo freddo. Ma questa pomata che ti stavo dicendo, l'artiglio del diavolo, è la pomata che usano i giocatori quando fanno gli strappi, i giocatori di calcio, ed è micidiale, è la più forte che c'è, non ce n'è altra così. Beh, la selezione non me l'ha fatto passare, però l'artiglio del diavolo me l'ha fatto passare. Quelle sono pomate buone, quelle sono pomate buone, va bene. Avanti, fra, riprendi, voglio un paio di passaggi, vi lascio perché devo preparare la cena, che alle 7:30 arriva la gente, quindi devo preparare, dai, riprendi, fra, tanto. Ehi, capa, stai chiudendo? Ehi, fra, che veniva mio fratello a cena, con mio compare, devo preparare, è già tardi. Sai cosa devo fare? Devo preparare il focus. Cioè ci sentiamo, dai, domani mattina ti chiamo, ok, fra, domani mattina ti chiamo, c'ho altre cose da dirti, ti dico al telefono. Niente, beh, vi saluto, ciao già. Così vi lascio alle vostre chiacchiere. Ci aggiorniamo, vai già. Ciao, buon divertimento, buona partita, tanto un gioco che devi andare a partita. Andare, ciao Fra, buon tutto, ce la riascolto alle prossime, ci sentiamo. Andar bene Meda. Oh Fra, hai visto dove c'è la lavatrice nel carvedio? Nella